Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Vi ricordiamo che questo programma va in onda dall'unica scuola materna italiana ancora in attività, nonostante la stagione sia ormai quella delle vacanze. Le vacanze. Drago, le vacanze, ma quando cominciano le vacanze? No, il fatto è che l'Italia è un grande asilo e noi facciamo parte dell'Italia e quindi dobbiamo per forza rimanere aperti, perché l'Italia mica chiude per ferie. Ma come no? Anzi, vedi che la politica adesso è tutto un sommovimento, quindi sì, non vanno mica in ferie. Sì, ma sono le ultime fiammate queste qui, sono le ultime telefonate che fai prima di partire per la vacanza, capito? Hanno già tutti la valigia pronta. Eh beh, certo, devono scappare all'estero, perché sennò rimenano qui. All'estero, ma Drago, in vacanza arriva agosto e si fanno le ferie, no? Forse ad agosto le facciamo anche noi le ferie. Forse. Qui all'asilo succede spesso che i bambini litighino, è normale, si tratta di litigi che durano meno di un minuto e che poi non hanno conseguenze. Ma i bambini sanno come comportarsi, è solo crescendo che poi si rovinano. Può darsi, infatti i litigi tra adulti sono meno frequenti ma hanno un'intensità superiore, tendono a durare anche anni e a volte finiscono in violenza. Sì, a parte i litigi televisivi che cominciano quando le telecamere si accendono, finiscono quando le telecamere si spengono. Ma quello del litigio televisivo ormai è un genere della commedia dell'arte. E tu sei un pirla! Appunto. Commedia dell'arte, vedi, il pirla. Come faremo, Drago, il prossimo anno senza le bambinate del bambino Santoro? Come faremo? Senza anni zero sarà durissima fare chiedere. Magari ci sarà, sai chi? Ci sarà Fiorello che fa, il talk show, no? Sì, però non è la stessa cosa con Fiorello. Fiorello non litiga mai con nessuno, anche perché parla sempre lui. Non potrebbe può litigare con se stesso. Ecco, forse l'ha già fatto in qualche spot, l'ha già usata. Vediamo, Drago, che il bambino Santoro firmi per qualche altra rete e rimette in piedi il suo ring, Fight Club. È molto divertente. Il litigio più frequente in Italia, il tipo di litigio più frequente, è quello con il vicino di casa. Il vicino di casa, tipo i vicini di Erba. Esatto, proprio così. Per fortuna, noi ci ricordiamo solo di Erba perché è stata una strage, però le piccole liti con minacce, a volte anche botte, sono proprio all'ordine del giorno. I registri di polizia e carabinieri sono pieni di queste cose. Ma tu cose che ne qua. Sai? Cosa ne perché sai? Perché c'è un sito che si occupa di immobili che ha avuto la bella idea di fare un sondaggio e ha visto che bene il 26% degli italiani ha litigato almeno una volta con un vicino di casa. A te è mai capitato di litigare? Ma sì, sì. Per quale motivo? Perché Tito fa la pipì sul balcone e quindi aspetta, vediamo cola se e gli casca sulle cose che lei mette lì sul terrazzino. Sul terrazzino. Sì, le patate. Quindi potrebbe rientrare o nel caso, perché qui nel sondaggio ci sono i vari casi di litigio. Uno è cani e gatti invadenti, 14%, e poi c'è quello delle infiltrazioni dell'acqua che è 11%. È una combinazione delle due. Sì. Comunque i casi per cui si litiga sono sempre gli stessi. Prova a immaginarteli senza leggere i dati, vedi un po'. Il rumore. Sì, bravo. Sembra che sposti mobili durante la notte, 15%. Poi? Perché fanno l'amore. Quello sposta di mobili rientra anche nel fare l'amore. Immagina un po'. Ma non è detto mica che senti il letto che si muove o l'armadio. Ma di solito un po' anche c'è quello, perché sennò vuol dire su un letto acqua. Lì bisogna capire se gli interlocutori di questa urlano. Ci sono le donne che urlano. Ho capito, però intanto c'è anche il rumore di mobili spostati. Perché sennò non si capisce. Perché vedo dalla regia. È vero. Non siamo maschilisti, anche gli uomini urlano. La regia mobile qui dell'asilo. Di solito per i crampi, però vabbè, comunque anche il parcheggio, no? Parcheggi nel posto sbagliato sotto casa, allora il vicino si incazza. Il disordine sul pianerottolo, perché metti magari gli scatoloni lì, ti dimentichi. Hai capito. Poi c'è anche la classifica di chi litiga di più in Italia regione per regione. Siciliani sono i più riottosi, 34%, mentre valdostani e abruzzesi seguono a poco passo il 31%. Gli abruzzesi dopo il terremoto, probabilmente i vicini di casa si sono avvicinati ancora di più. Perché questo, sono canzoni crollati i muri anche che dividevano le case. Ma c'è anche chi litiga di meno. Sì, e sono gli umbri, 18%, e i calabresi. Quindi c'è molta differenza tra i calabresi e i siciliani, che i primi sono tranquilli, i secondi sono litigiosi. Questo è un problema. E quindi non si capisce, se fanno un ponte sullo stretto poi... No, è giusto. No, come si fa? Cioè, chi è a Reggio Calabria che non litiga mai col vicino potrebbe diventare... Potrebbe sì, però farsi queste, diciamo, queste classifiche sono sui litigi quelli normali, perché il litigio dei vicini di Erba, insomma, non è un litigio, è una strage. Una strage del più famoso litigio di vicini di casa che possiamo ricordarci in Italia. È avvenuto, ricordiamo, per un problema di invidia in primis e poi di rumori, no? Come questa è la scusa ufficiale. Scusa ufficiale. Sì. E tra l'altro l'invidia è stata analizzata dal sondaggio di cui parlavamo prima e dice che è una delle cause del litigio, però solo il 9% degli italiani ammette di invidiare lo stile di vita del vicino, la casa, la terrazza, però in realtà sembra che tutti litighino per quello. Ma perché l'erba del vicino è il vicino di erba. E ora, bambini, ricreazione! No, perché? Cosa c'è? Lasciami suonare, cos'è che vuoi? No, lasciami parlare. Durante la ricreazione lascia suonare K, dai. Vabbè, ho qualcosa da dire. Lasciami dire qualcosa adesso. Allora, siccome qui si parla sempre di diritti dei bambini, certo, no? A me sembra, e voi dovreste venirmi incontro, manca un diritto fondamentale. Ma quale, scusa, cioè, i diritti dei bambini sono il diritto al gioco, il diritto allo studio, il diritto al cibo. Il cibo, mangiare, non morire di fame. E mi sembra che non manchi niente. Che cosa manca, scusa? Cioè, il diritto alle vacanze da solo. Ma come? Ma scusate, ma perché io devo andare in vacanza con i miei genitori? O in alternativa dalla nonna in campagna? Bello, o addirittura in alternativa, e questa è una cosa tremenda, in un campo estivo. Il Grest, scusa, Grest. Bellissimo il Grest. Vabbè, ma non posso stare nella casa da solo. Ma ci sono altri bambini al Grest, no? Fai amicizia, giochi. Appunto. Ma è proprio quello che io voglio evitare. Niente, cioè, lui... tu vuoi stare a casa? Allora, io voglio stare a casa da solo, col ventilatore a palla, sì, l'anguria nel frigo, un migliaio di euro nel cassetto, no? Vabbè, e poi la TV sempre accesa. Ma queste cose si fanno verso i 18 anni, forse un migliaio di euro nemmeno a 18 anni. Ma come sei? Come sono? 18 anni. È un bambino dell'asilo, come può pensare che venga lasciato da solo in casa mentre i genitori vanno in vacanza? Non è mai esistito. Ma senti un po', cioè, ma ci sono quei genitori che lasciano i neonati 5 ore nella macchina chiusi sotto il sole. Vabbè, sono cose di cronaca orribili che succedono, a distrazione può succedere. E io invece dovrei farmi dei problemi? Che perché vorrei stare al fresco a casa, sì, con le tapparelle giù? Ma che tristezza. Mentre mi sono in Corsica. No? Scusa, ma che poi in Corsica, tra l'altro, ma facci tu? Ma dici voi in Corsica, no? Corsica adesso io andrei piuttosto di stare. Scusa, qui. Bambino Alberto, in questo caso ha ragione Drago, scusa. Ma perché? Ma perché? Non è una roba da bambini. Ma scusa, io non chiedo niente. Niente. Cioè, non è che io voglio che mi comprino chissà che cosa, no? Io voglio solo stare a casa da solo d'estate. Io mi sento bene solo a casa. Cioè, questo dovreste averlo capito, no? E anche da solo, capito? Però noi, che quello. A parte che non siamo noi che decidiamo, infatti, quindi sono i tuoi genitori che devono decidere. Se per loro non c'è problema, figuriamoci per noi. Ma invece per loro c'è problema. C'è problema. E c'è grosso problema. Beh, tu potresti provare a essere diplomatico. Gli dici, se per voi non c'è problema... Allora potrei dirglielo cantando, no? Cantando, bravo. Sei un cantante, è famoso, su YouTube, lo è famosissimo. So, beh, certo, sì, dai, video. Bravo, cantagliele. Cantagliele. Allora, canto. Gliele canti. Vai, ascoltate. Non mi mandate al campo estivo, piuttosto mi picco in bagno. Io sono uno che va in sbattimento quando sta in mezzo agli altri. Odio la turca, la corsa campestre, la pelle del latte stracotto. Cosa ne dite se questa estate resto a casa da solo? Se per voi non c'è problema, per me figurarsi neanche, con la voce che mi trema. Mamma ti prego, papà ti scongiuro, non vi faccio pena. L'anguria nel frigo, un migliaio di euro. Se per voi non c'è problema, figuratevi per me. Mi portate dalla nonna in campagna, mi sento male. C'è un caldo che ammazza, una noia infernale. La lunga so già che mi rompo i coglioni. Fate come se io non ci fossi, godetevi la vostra vacanza. Quindi è deciso, per quest'estate io resto a casa da solo. Se per voi non c'è problema, faccio pena. L'anguria nel frigo, un migliaio di euro. Se per voi non c'è problema, Questa è Radio 24. Tra poco sarà disponibile anche il video di Se per voi non c'è problema, ma intanto visitate il canale YouTube dell'Istituto Barlumen, dove ci sono tutti i video del bambino Alberto, da finocchi cotti a lampascione. Ma cos'è, una rubrica di ortofrutta? Non so, cosa dobbiamo fare? Cos'è questo, un cuore? Non un cuore, è il ritmo, infatti non lo senti. Io non so, dirmi la mail. Vabbè, dai, chiedo asilo, @radio24.it. Scrivete e mandate le vostre richieste. Noi vi mandiamo tutti gli MP3 per fare le suonerie. Ma cosa dici? A pagamento, però.